fuori in sulla sponda del noto lago si conduca questa vittima esentorata dove l'attende con dentinieri a bocca aperta il mondo catterrà a bocca aperta no no torniamo indietro non si può che la dea vuoi a tua morte avanti ma la signora Diana non vuol vedere gli amanti in sacrificio appunto Dio fedele con le donne non sono un mago mai torniamo indietro ma troppo questa tua regolioggio e di lumi poi la pascoli al mostro si strascini costui Milano aspettate amici olà fermate il Milano non fu che sacrificio chiese di per un picco amore fece mentir costui la gelosia parlò le labbra suoi non dia la dea come sbuglia come sbuglia come la dea e per salvar l'amante così la mia reputazione attragli Sappiamo al fine che manice li ha mosso, perché Fileno poi sposi Nerina. Temerario! E che mi dà questa trago orribile taccia? Nerina. Le mostro orrendo queste più conducete, e gli orribili dell'area voi difendete. Misericordia! Amedeo! La dea sdegnata nell'oracolo suo così fa bene.